quello che siamo. Quindi io sono venuta, diciamo, quello che mi aspettavo è di avere occhi diversi. Ho chiesto tante volte a tante persone in questi giorni da dove venivano, cosa facevano, e grazie a queste storie che sono state condivise sento di aver acquisito quello sguardo diverso che stavo cercando, un modo diverso di vedere non solamente la natura ma proprio di fare ricerca. Quindi diciamo, quello che ho trovato è stata una comunità che forse insieme in qualche modo ha questa esigenza comune e si riconosce forse per questa esigenza. Penso che siamo tutti qui perché vogliamo farci contaminare, vogliamo avere prospettive diverse e io spero di utilizzarle nel mio lavoro. Mi ricollego a quello che diceva Caterina, che diceva probabilmente abbiamo bisogno anche di farle cantare. Io questa notte ho dormito, ho avuto un sonno molto leggero perché continuavano ad arrivare tantissimi stimoli alla mente rispetto a cose che avevo vissuto durante la giornata, nei giorni precedenti. Ieri per me è stata una giornata molto intensa emotivamente perché è stato bellissimo avere la restituzione da parte di tutti i gruppi, credo sia stato, non so, inaspettato tutto quello che è emerso. E quindi ho cercato, diciamo, quello che mi ha guidato, e soprattutto in queste, durante le attività, è stata una frase che ha detto Raffaella. Un giorno ha detto, non pensate a cosa fare per forza, fate e basta, avendo fiducia, perché qualcosa emergerà. Ho sentito che è emerso. Grazie. Grazie. Io quello che mi porto a casa è stato veramente piacevole vedere come l'unione di tante diversità non abbia portato alla fine a una cacofonia di suoni visuali, ma un'armonia di relazioni che si supportavano vicende. E come negli ecosistemi si è creata questa comunità con delle proprietà emergenti che non sono la semplice somma delle proprietà dei singoli elementi. Il senso di comunità è stata la cosa più bella. Quindi passo la palla a chi non sono riuscito a non riuscire a correre. Il modo di inseguire, cioè di credere. Esatto, giuro che io stamattina ho messo la sveglia, ma è tutte le mattine. Grazie per la lancia. Io devo dire che non avevo grandi aspettative, cioè mi aveva incuriosito molto appunto questa opportunità di scambio tra saperi diversi, perché spesso tu parli di disagio da un punto di vista scientifico, ma io te lo dico anche dall'altra parte, da un punto di vista umanistico, come se a volte parlare di scienza fosse solo degli scienziati. E invece non è così, perché la scienza di tutti è un sapere che va riportato a tutta la comunità, e quindi volevo appunto seguire un flusso, cioè trovare persone e seguire il flusso delle persone, delle energie. Quindi spesso magari c'è chi si impone di più, c'è chi si trae e rimane più in disparte, e invece secondo me siamo riusciti ad avere voci tutti allo stesso modo, ognuno con una voce e un tono diverso, e quindi mi porto a casa appunto questa bellissima armonia, questa bellissima, e mi meraviglia sempre come persone completamente quasi sconosciute fino a 5-6 giorni fa riescono poi a trovare una connessione così profonda. E per me tutto questo è veramente magico e voglio ringraziare tutti quanti. Grazie. Grazie. po' abbandonare magari un po' di sicurezze o di, diciamo, prese di distanza o di sovrastrutture che uno può avere per, e che può limitare questa, questa possibilità, diciamo, di sentirsi di quello che succede, delle persone, delle cose che si fanno. E per primo, la prima sera, alla fine, questa, alla fine, all'inizio di questa settimana, però, diciamo, è stato subito un punto in cui lo stupore del fatto che quando abbiamo presentato il nostro oggetto, quasi sempre eravamo il nostro oggetto. Ci siamo dimenticati di dire il nostro nome, chi l'ha detto, perché magari qualcuno mi era ricordato, ma il nome, anche se l'ha detto prima, e in fondo era descrivere perché quell'oggetto aveva un senso per noi, che cosa voleva dire, che messaggio volevamo dare, e questo anche chi magari l'oggetto l'ha scelto di fuori, quindi indipendentemente da come fosse arrivato, da pensarci quando Alba ha scritto, portato un oggetto, ci penso e quindi elaboro, quindi arrivo a un punto, oppure uscendo di casa, porca miseria, l'oggetto, prendo una cosa che però poi ha portato un significato. E quella cosa, diciamo, dice, ok, ci stiamo immedesimando in qualcosa, presento qualcosa che dà un senso, voglio dare un messaggio. E poi l'altra cosa, la volta ci si scrive qualcosa e si chiude perché vabbè tecnicamente si metteva dentro e quindi questo qualcosa cresce, perché è cresciuto nella settimana, ma poi per potersi esprimere meglio si mette lì, si apre, si può condividere, si può raccontare qui oppure si può leggere lì e in questo senso è proprio un po' la condivisione e la crescita del gruppo che ha portato a un sistema che è diverso dalla somma delle singole parti perché ognuno ha messo per sé. Io ho disegnato una chiave nella porta perché appunto alla fine di questa esperienza mi aspettavo nuove chiavi di lettura, una nuova chiave di lettura, e poi perché mi sembrava appunto un po' emblematico aprire una porta e trovare in realtà una chiave quando la porta è già aperta, ma è proprio appunto una chiave per una nuova porta, insomma un po' anche un cambio di paradigma in quel senso lì, che effettivamente insomma c'è stato, ho sentito proprio grazie a questo flusso che già pensavo una parola che c'è stato tra di noi, un po' anche smussando i vari angoli delle nostre professioni. Ho notato infatti anche che in alcuni casi ce lo si chiedeva che cosa, qual è il tuo ambito, qual è il tuo settore, quindi vuol dire che non siamo stati, almeno credo, così rigidi da dire ah ok, lui si occupa di scienza, lui è un artista, eccetera, quindi anche il fatto di chiederselo, eccetera, significa che abbiamo un po' abbassato queste barriere, ed effettivamente poi appunto questa nuova chiave di lettura generata da questo flusso l'ho sentita, c'è stata, e quindi grazie a tutti e a tutte. Ogni 3-4 mesi succede. realtà viene riscomposto e ridecisione di prima c'è la bella, e questa cosa non posso migliorare. Non so se voglio farlo, mi piace. E mi è piaciuto tantissimo tutto l'aspetto artistico di rimescolare la potenza dell'ambiente naturale che emerge sotto forme diversissime. Ieri è stato veramente emozionante e forse sono felice che noi l'abbiamo fatto più per un motivo logistico di scegliere il vostro plot finale, ma sono felicissima che l'abbiamo fatto perché secondo me ha coronato. Voi avete unito tantissimo poi effettivamente lì, cioè con le vibrazioni in qualche modo tutte le persone presenti lì, quindi è stato un buon pulmine diciamo nell'esperienza. E quindi sicuramente sono, insomma, questo elemento è stato fondamentale. E dall'altra parte, la parte umana, io sono arrivata qua con vari incastri in testa, credo molti, credo, e da quello che ho capito, però ci sono stati dei discorsi chiave che mi hanno, non so, sbloccato qualcosa effettivamente. E sono felice, che credo che un po' fosse l'obiettivo, sia quello un po' professionale e personale, però da quel punto di vista, quindi l'artista o comunque l'umano accoglie di più la biodiversità naturale, e il biologo naturalista più l'umano, e poi c'è l'aspetto sociale che è stato vicino, viene fuori per forza, sono più di 30 persone la settimana insieme, insomma, qualcosa esce fuori, quindi grazie. A un certo punto, quando senti un'energia che ti avvolge, ti senti anche spontaneamente di poter fare delle cose, perché capisci che le persone ti seguono, ma ti seguono con un certo spirito, no? Io non avevo bisogno di persone che mi seguivano per guardare l'erba o semplicemente per guardarsi attorno, ma avevo bisogno di qualcuno che mi seguisse in quel cammino, seguendo il mio flusso, no? E quindi questa cosa l'ho sentita un po' da subito e quindi mi sono sentita un po'. E poi sì, l'esperienza di guardare il mio mondo attraverso i vostri occhi comunque è comunque una cosa molto forte. Ho detto l'altro giorno che il paesaggio appunto lo guardiamo, cioè il paesaggio è quello che guardiamo con i nostri occhi e che ci costruiamo dentro, e quindi io adesso il mio paesaggio appunto in realtà lo vedo anche con i vostri occhi e guardando anche stamattina tutti i vari oggetti che avete portato, mi sono resa conto che in realtà io ho tutti quegli oggetti che ho visto, cioè io sono qua da 50 anni quasi e tutte quelle cose che avete visto voi non le avevo mai notate, no? La vitalba per esempio io non l'avevo mai resa a farci qualcosa e adesso invece mi sembra bellissima. Quindi niente, spero di poter tornare a vedere appunto il mondo non soltanto questo, ma in generale anche con un po' dei vostri sguardi tutto questo in questi giorni. Non vedremo nessuno. Finalmente magari si limita sempre, in realtà io ho abbastanza esperienza di questo tipo di situazioni perché il nostro lavoro si fonda un pochino su questo tipo di esperienza, almeno per una parte, e quindi sono abituato, però devo dire che tutte le volte comunque è sorprendente perché l'immersione in quello che è già stato detto, cioè questa ricchezza, diversità, che poi però trova una sua comunità e un suo modo di esprimersi, è sempre incredibile, cioè è quella cosa che forse mi ha sorpreso di più, la ricchezza, poi in questo caso specifico dove ognuno ha delle storie, delle vite e delle ricerche così approfondite, così profonde e anche a volte anche molto disciplinari, che però quando sono messe insieme e soprattutto quando c'è la fiducia, questo secondo me di nuovo lo ridico, è la questione della fiducia per me è essenziale, cioè, ed è anche un approccio che per me proprio è fondativo, cioè nel senso che io ero sicuro di mettermi insieme delle persone saremmo stati bene, cioè avevo fiducia totale, devo dire, soprattutto se in un contesto così, in un luogo di questo tipo, con qualunque cosa cioè, avessimo fatto, qualcuno avrebbe trovato in ogni caso qualcosa di significativo. No? E però nonostante tutto, quando poi anche ieri, ma non solo, cioè, vedi che cosa le persone in poco tempo, in poche ore, no, riescono a mettere insieme, è un momento proprio di epifania, cioè che dici vabbè allora cioè esiste qualcosa che si può fare, non so, di diverso rispetto alle nostre pratiche insomma molto chiuse in fondo, lo dico anche dal nostro punto di vista, in teoria l'arte dovrebbe essere cioè c'è un metodo, no? Uno si decide il metodo che vuole, in realtà poi quando vai a indagare i mondi, no? Ciascuno è nel suo, molto nel suo, no? E quindi questo invece vedere che quando si è insieme, poi cioè, questi limiti, no, vengono, se c'hai fiducia uno nell'altro, vengono totalmente, cioè, rimessi in discussione, sorpassati, con anche, mi è piaciuto che uscita la questione della giocosità, dell'allegria, dello stare insieme, no? Cioè, questo vuol dire però fare un po' un passo indietro, cioè spogliarsi in qualche modo anche dalle proprie, dal proprio ruolo. Questa è una cosa che noi ci siamo detti sin da subito, cioè che volevamo provare a mettere in gioco, era quello di spogliarsi delle nostre maschere, se vuoi, dei nostri vestiti normali che ciascuno poi è semplicemente stare insieme. Io quello che avevo messo nella mia porta è imparare a stare insieme. Penso che io un po' l'ho imparato in queste settimane a stare insieme, no? Mi è spiaciuto, come dici tu, di non averlo fatto con la stessa intensità con tutti. Questo è anche a me rimane come un tarlo, perché siamo in tanti, perché comunque noi in qualche modo eravamo anche distanti dalla sera, quindi non c'è stato magari questa possibilità. Poi vabbè, c'è anche in modi diversi, io quando sono in giro magari intanto parlo, però me ne sto anche a camminare, a guardare le cose, per cui non cioè probabilmente ci va un tempo un po' più lungo, però appunto magari si può rimediare in qualche modo. E poi l'ultima cosa, chiudo, vi ringrazio per la disponibilità con cui avete accettato, perché non è scontato questo, che in un gruppo comunque bene o male ciascuno ha trovato almeno qualche cosa che mi è sembrato, io poi l'ho osservato, comunque. E invece a volte non è così facile, quindi però ci va questa disponibilità che mi sembra che ci sia stata da parte di tutti. Ne stava a vedere cosa succedeva, no? Abbiamo fatto delle proposte che raccontarle, se voi adesso andate a casa e le raccontate, si andate a fare, cioè, no? Perché, e questo poi magari è una cosa che vi chiederò, non sarà il tempo di farlo, ma che cosa è cambiato da quando avete iniziato a leggere la consegna e a fare la cosa, quando ieri avete visto quello che i vostri colleghi e voi stessi avete fatto nei vostri perimetri, no? Nei vostri quadrati. Questa è una domanda che lancio, cioè cosa emerge, l'emergenza, no? O che cosa emerge dal farlo, non dal solo dal pensarlo o dall'immaginarlo, ma l'emersione dalla... A chi la vuoi dare? No, ti sei alzato, sei benissimo. No, nel senso che tanti soldi non hanno ancora parlare, preferivo. Vai, sarò brevissima, non aspettavo di parlare anch'io. Sarò brevissima. La prima cosa è che per me per fare tutto questo ci vuole molto coraggio, che è una bellissima cosa avercela, ma non sempre ce lo si ha. Sempre sarà facile questa strada, che i processi che si attivano hanno dei percorsi che non sappiamo, per cui bisogna anche fare tante cose da abbandonare, c'è anche quello di immaginare che sia un percorso lineare, per cui non torna a casa e succedono delle cose, magari succedono tra 5 anni, quindi i processi che abbiamo messo in azione non sono lineari, non si sa come si svilupperanno, come è stato queste cose che abbiamo fatto, no? Così inaspettato, quindi un po' presa su adesso come cambierà, magari sono piccolissime cose che poi non neanche si sommano, si moltiplicano, a un certo punto le cose cambiano. L'altra cosa, abbiate fiducia che anche dopo una tanti anni quasi, ci sono tante prime volte, io ne sto come dire, conoscendo di più negli ultimi 5-6 anni che forse in tutta la mia vita, quindi anche per me ognuno di questi incontri veramente anche questo. E ultima cosa, che io avevo scritto che mi sarebbe piaciuto, ho usato la parola alleanza col non umano, e mi sembra che qui non è mai venuto fuori, abbiamo parlato molto di noi, ovviamente era presentissimo, però io ho avuto sempre la sensazione che i luoghi dove eravamo e tutto ciò che abbiamo incontrato partecipasse moltissimo di questa. Quindi non lo so spiegare a parole, ma ogni luogo si portava, no? Un cambiamento ed era alleato con noi in qualche modo, e quindi per me in questo periodo della mia vita poi è molto importante girarmi e guardare in un altro modo, no? Appunto ciò che vive e che non è umano, senza dimenticare l'umano. Quindi volevo ricordare che insomma qui tra l'altro ci sono anche i faggi, c'è la prateria del Pleo e ci sono tutti gli organismi che più o meno visibili o invisibili che ci sono stati, ecco. E quindi io non potevo più chiara. Grazie. Difficilissimo. Io sono partita da una necessità, quindi sono arrivata qui con l'aspettativa di incontrare delle persone che viaggiavano lungo dei confini. Quindi ovviamente non è sempre facile viaggiare nei confini quando siamo fuori di qui, perché fuori ci sono le etichette, i nomi, gli ruoli, quindi è molto complesso riuscire a muoversi dentro, no? Dentro le relazioni. Con in certi casi il senso della difficoltà anche di riuscire a relazionarsi con tante persone contemporanee, no? Noi anche come siamo tanti. Questo mi accade spesso nel lavoro con 40 persone insieme contemporanee. Quindi io cercavo un momento anche per riflettere su due aspetti di cambiamento, che il momento fosse proprio anche mio. Quindi ringrazio tutti, devo ragionarci, quindi ci vorrà molto tempo. Posso dire un po' due cose, una molto forte, ne ha parlato anche Rita, è quella di lasciare andare. Cioè in certi casi lasciare andare e far sì che le cose vadano da sé, no? Si costruiscano da sé e poi diventino magari un corpo. Un'altra, che è più appunto un desiderio, che non so quanto si realizzerà, che è quello di riuscire a riportare tutto questo nel mio spazio. Non sarà facile, appunto fuori ci sono tutti gli scopi, gli obiettivi, i tempi estremamente stretti, veloci, non sono i tempi della natura, no? Spesso sono, poi Milano non ha i tempi della natura. però sarà la maniera di riuscire nel tempo anche dentro il gruppo di lavoro delle 40 persone tutti i giorni, di riuscire a portare un segno, no? Tutto questo. Per riuscire a diventare più comunità che com'è il lavoro. Ecco, questo secondo me è un passaggio importante, perché poi noi nell'ambito anche del lavoro passiamo tanto, per riuscire a costruire. Quindi ringrazio. Allora, io, una delle parole che avevo scritto nella porta era leggerezza, forse perché ne avevo bisogno, ma anche proprio come condizione, no, per accogliere tutte le cose che poi abbiamo detto abbondantemente. Per cui credo che questo sia stato veramente un po' anche grazie al contributo di tutti, cioè da chi ha organizzato a chi ha cucinato. In mezzo ci siamo noi e la nostra anche capacità un po' di tutti in questi giorni di lasciare da parte i propri mondi, no? Per cui poi condivido molte parole che sono state già dette, però rilancio alcune osservazioni, perché nelle mie parole, anche leggendole prima, c'era molto anche questa idea di disseminare qualcosa, no? Per cui forse un'aspettativa che questa cosa generasse anche altro in me, ma non solo. E per cui mi sono un po' divertito a riflettere, anche forse perché con un'attitudine pedagogica mi piace guardare come in questo concentrato di vite, no, anche di adulti, si creano delle dinamiche che poi rivedo in altre tipologie di gruppi. Per cui mi sono divertito bene, innanzitutto un po' a, ecco, una cosa che mi porto è quanto siamo occidentali, quanto siamo mentali. Cioè anche adesso abbiamo bisogno di 2 minuti per esprimerci, no? O abbiamo bisogno di respirare per stare fermi, cioè, o di fare una mappatura per osservare, no? E mi porto dietro questa cosa di quanto siamo cerebrali, quanto siamo. E per cui anche, non so, un invito che faccio a me, anche quello proprio questa idea di leggerezza che va anche forse nel, non so, mi porto dietro, no, un'idea di relazione con il mondo. Però rispetto a quello che dicevamo di seminare, mi sono divertito un po' a giocare immaginandoci, per esempio, ma se fossimo stati qui 2 settimane, 3 settimane, cioè magari sarebbero, no? Cioè mi viene anche da dire, cioè tutti siamo stati in una tensione che ha permesso di creare questo, però magari con 2 o 3 settimane emergerebbero, ne so, da grandi litigate a grandi amori, non lo so, no? Mi diverte pensare questa cosa. Mi piacerebbe, mi sono divertito a immaginare, ma se ci fosse un anziano, un adolescente, un bambino. Ci sono gli anziani. Immaginazione, che però è stato un elemento comunque importante in questi giorni, ecco, così è un invito che faccio un po' a tutti, però anche poi più concretamente forse anche a pensare che questo è stato una grande confluenza di energie e per cui sarebbe proprio un peccato, boh, non lo so, non dargli seguito, dal momento che comunque è stata un'esperienza in cui ognuno ha ragionato anche sulla propria forma mentis e forse era un po' modellato in una certa direzione e ci vedrei tante possibilità di vedere questo come un punto di inizio e non come un punto di fine, ecco, così. Grazie. Grazie. Allora, ovviamente è difficile tante cose. Io non sono partito neanche io con un'aspettativa, ma con delle necessità e con la curiosità. E quindi era un gomitolo, ed è questo gomitolo si è staccato un filo, ed era questo filo che lasciava questo gomitolo e andava verso di voi. Ci sono arrivato correndo da voi. È stato bello trovarvi, è stato bello tutto. Avevo necessità di ritrovare il bosco, di ritrovare i fatti, di ritrovare un bosco non da studiare, ma un bosco da sentire e da raccontare. E quindi per me è stato molto, molto importante, mi ha permesso di mettere ordine e di destrutturarmi. Tante cose che abbiamo detto sono comuni, questo ruolo di ricercatore che ci sta stretto, per cui intanto devi un attimo forse destrutturarti e aprire delle relazioni e la curiosità nel conoscervi e nel poter dare una parte di me piccola, impercettibile e di ricevere però molto da voi. E chiudo anch'io con una poesia molto velocemente, che mi è stata donata da una persona cara che io voglio donare a voi, che è di Grace Paley, una poetessa statunitense. Ed è: volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta. Ci ho messo. Ci ho messo più o meno lo stesso tempo. Ovvio, la torta era una stesura definitiva. Una poesia avrebbe richiesto un pochino di più: giorni, settimane, parecchia carta straccia. Questa torta piacerà a tutti. Ci saranno dentro mele e birtilli e abbiocche secche. Molti amici diranno: perché diavolo ne hai fatta una sola? Ci vuoi dire il nome della Grace Paley. Hai detto tutto. Grace? Paley. Paley. Paley. Come fa? P-A-L-E-Y. Grazie. invece lavorare però nel nostro studio, nel nostro laboratorio, un po' limpidamente entrerà magari qualcosa sicuramente, e questa era un'aspettativa che avevo e che credo che sia abbastanza. E e poi le relazioni sui giovani. diverso da quello che facevo nel geografia sociale. Avevo proprio voglia di esserci lì. Che quando si parla di traiettorie, l'ideazione anche può essere cambiata secondo quello che succede nel mentre, nell'incontro, nel trovarsi, nel trovarci, che parla della seconda linea verso un punto che si conosce, o sembra di conoscersi, ma anche quando si apre la porta, quando si comincia il cammino, non sempre arriva finalmente dove aveva pensato prima di arrivare. Ho messo anche dentro le mie porte, della mia porta, questi semi alate, dentro con le ali, che quello non mi ha fatto senso, perché partendo dall'albero, nel momento di trovare un posto dove fare radici, vengono portati dal vento, dalle situazioni, dalle cose, non si sa dove vanno alla fine. Vorrei dire che tutto ha avuto tanta magia, ma il momento che ci ha dato il quaderno è stato per me come la sicurezza di che questo sarebbe bellissimo. eravamo tutti sull'erba, ho guardato qualche foto giorni fa di quel momento e non riguardo nessuno, neanche avevo questa idea del fotografare, invece devo stare qua, sì, quello che mi sta davanti. E però pure e lì questa cosa ho detto, vabbè, cerchiamo di ripensarla in qualche modo, quindi di riviverla in un altro modo rispetto a quello che tu hai pensato, da quello che tu hai immaginato e così via. E infatti poi me la sono voluta. E quindi c'è stato proprio un momento di consapevolezza, no? Di questo passaggio, almeno da parte mia. Quindi il gesto che mi viene da fare in questo momento conclusivo era proprio quello di proprio entità diverse, quindi due mani che a un certo punto si incontrano, si intrecciano per poi fondersi. E questo è stato molto evidente proprio nelle restituzioni di ogni gruppo che c'è stato ieri, quindi dove veramente ognuno si è fuso con l'altro, dove a quel punto scientifico, umanistico, artistico, cioè a un certo punto era proprio un flusso di energie, di emozioni, esperienze, e quindi racchiudeva un po' il tutto. E quindi sicuramente torno a casa ricca, e quindi come diceva qualcuno, che bisogna lasciar decantare però poi non farlo morire, quindi non farlo rimanere qua, ma riviverlo in qualche modo. E quindi anche questo proprio era quello, sì, era proprio quello che avrei chiesto, insomma, a voi organizzatori in qualche modo, no? Quindi c'è proprio il discorso di sì, ce lo portiamo a casa, ognuno ritorna, però pensare anche a delle forme per riviverlo tutto questo. Grazie a tutti. Sto scherzando. Allora, una grandissima partita per riempire questi minuti di silenzio. Povero, se ti dico parole, in realtà non posso fare con Francesco un bilancio, perché forse non arriverà mai, forse stasera quando sono da solo in camera, dopo una settimana che abbiamo conosciuto insieme. Per me è stato molto impegnativo, questa è un'esperienza davvero pesante in certi momenti. Io mi sono sentito compresso, ieri al mio gruppo ho proposto di finire l'attività urlando tutti insieme, infatti. Ti suggerirei forse un tiro alla fune per sfogarsi, perché sfogare è una cosa che dovrò fare prossimamente, sicuro di questa esperienza. Volevo solo ringraziare chi mi ha aiutato a superare questi momenti in cui mi sentivo estremamente compresso, scambiando quattro parole, una risata, una battuta. Grazie a te per averci nominato. Adesso un po'. Adesso dice tutto. Cominciò sulla porta e io ho scritto che avrei voluto alla fine di questa esperienza immaginare di non avere più il peso. Ricordate che diciamo, ho detto che ero vulcanica e quindi io ho tutto il corpo che mi deve piangere, sto vedendo pure io ho tutto il corpo che mi trema perché sento fisicamente diciamo, l'emozione. Però questo peso era anche un peso rispetto al fatto che comunque c'è stato un gruppo di questo gruppo che aveva una responsabilità comunque in qualche modo di fare in modo che a mezzanotte ci avessimo il programma pronto per il giorno dopo, anche se non avevamo pensato tantissimo. Quindi diciamo questo volare leggero voleva dire essere in un ruolo, sapere che c'è un ruolo, essere però dentro nello stesso tempo il processo, perché è un processo che riguarda tutti. Quindi in un certo senso il mio obiettivo, più che voi, che siete stato forse strumento, è stato il gruppo che ha creato, cioè questa contaminazione, questa transdisciplinarità, questo uscire dai confini è cominciato ben prima di voi qui. E quindi per me la sfida grossa era mettere insieme scienziati, artisti, pensate che io non sono né scienziata né artista, cominciare a mettere proprio diversità e persone anche che dentro di sé sono scienziati e artisti, come Andrea, come la stessa Raffaella, quindi ognuno di noi che c'ha più, o addirittura sono non umani, perché Raffaella, ve lo devo dire, è una non umana, l'abbiamo visto chiaramente ieri sera, no? Quindi diciamo per me c'era questo livello, questo volare, dove per volare vuol dire anche lasciare che le cose scorrano senza che sia io a determinare, diciamo, senza controllare. Questo molti di voi l'hanno detto, quindi sto dicendo delle cose che riguardano e voglio provare anche a fare un po' una sintesi di tutte queste cose che ci siamo detti. Quindi diciamo l'obiettivo del nostro percorso che abbiamo costruito in un anno e mezzo, dove ci sono stati veramente è stato fatto tantissimo lavoro, era quello di veramente dare senso a questo. Cosa vuol dire creare diciamo comunità? Cosa vuol dire propiziare l'incontro? Un incontro, l'ha detto benissimo Andrea prima, io non avevo nessun dubbio diciamo che alla fine sarebbero stati comunque bene o male, diciamo che comunque qualcosa sarebbe successo, perché già il fatto che siete venuti qui voleva dire mettersi in una certa condizione e comunque di scomodità, anche soltanto non conoscere le persone, anche per chi magari voleva stare solo, e comunque grida, perché è fondamentale. Io sono solo un po' grido. E stare nel momento nello stesso tempo, diciamo, stare nel momento nello stesso tempo, fare un passo indietro, anche questo, loro lo sanno benissimo. Io, cioè, mi devo veramente trattenere, ma non perché voglio prevaricare gli altri, anche a volte li prevarico, perché mi sembra di avere sempre qualcosa da dire, da offrire, insomma, no? E quindi, diciamo, anche io ho cercato di fare un passo indietro in questi giorni e, diciamo, mantenere alto la fiducia di quello che sarebbe accaduto. Avevamo un po' di preoccupazione per questo momento anche. Ma ci sarà casino, o magari no, io ero sicurissima che avremmo ascoltato, ci avremmo ascoltato reciprocamente. Vado alla pagina numero 2. Allora, dobbiamo, diciamo, ecco, l'abbiamo chiamato orizzonte di riferimento anche questa cosa qui, perché diciamo ci ricongiungiamo sul punto di partenza. Il punto di partenza è che diciamo abbiamo capito insomma che siamo qui anche perché il disagio Nicola insomma c'è stato il disagio, c'è l'affanno, c'è un mondo che non ci sta andando in una direzione che non ci piace tanto e quindi secondo me questo tema dell'immaginazione che è fondamentale insomma, cioè noi dobbiamo veramente immaginare qualcosa di diverso, per immaginare qualcosa di diverso non è solo una questione creativa, a questo punto voglio ricordare che rigidità e rigore sono due cose diverse. Io credo che noi siamo stati molto rigorosi nella costruzione di questo percorso, mi sembrerà una cosa molto non è stata per niente naif, ma il rigore è stato proprio nel veramente aver fiducia, quindi non siamo stati rigidi un po' nei tempi, sì, ma perché anche quello era una forma di rigore, perché era non per starci dietro, ma proprio per permettere, diciamo, che voi dormiste tranquillamente. E niente, il tema della forma, questa forma, cioè la forma, cioè il tentativo, anche io mi sono dovuta sforzare, per questo veramente sono grata agli artisti, di pensare che la forma, più, cioè diciamo che anche questa teorizzazione che tu dici, su cui io ho capito, tu dici siamo molto occidentali, siamo ancora molto mentali, e quindi provare a far emergere questa riflessione, ma dal modo con cui noi per esempio stamattina abbiamo cominciato muovendoci dentro la stanza, perché conoscenza è movimento, cioè non è una cosa statica che io faccio appunto stando dietro a un banchetto. E quindi questo per dire che le nostre pratiche educative di ricerca, insomma, abbiamo provato a interrogare le nostre pratiche, quindi questa forma era un po' il frutto di tutto questo. Sparginalizzarsi, fiducia, ce lo siamo detto, ecco, anche mi è piaciuto moltissimo fare cammino insieme, sapendo che perderemo qualcuno, perderemo, lasceremo andare qualcuno, ma come ha detto Nicola, qualcuno lo si incontra per un minuto, non vi capita mai sull'autobus di incontrare una persona per un istante, che però è folgorante quel incontro, mai, era che cos'è? Che effetto, che sparaggio, che si è folgoratissimo, si è folgoratissimo. Capisco benissimo che qualcuno di noi ha bisogno di più tempo, tutti noi abbiamo bisogno di più tempo, e sì, se qualcuno ha voglia di ma scriverlo già su questo meraviglioso quaderno è una cosa bellissima, se poi lo si vuole condividere proviamo a trovare il modo per farlo. Va bene, artista, scienziato, l'uno dell'altro, perché siamo, come dicevamo all'inizio quando parlavamo della vacanza, siamo persone, prima di tutto persone, siamo umani. Siamo anche umani, siamo quasi tutti, come diceva questo amico. E l'altra cosa, l'esperienza, non pensare a cosa fai, ma fai, ma anche pensa però magari a come lo fai, perché il come può essere differente. E qui nel mondo scientifico un po' la prospettiva, questo per darvi un'idea, oltre al rigore comunque ci sono, come dire, delle riflessioni che anche sono teoriche, che di andare dalla quantità dei dati che raccogliamo, cioè quindi dal cosa, dal quanto raccogliamo, alla qualità dei processi che mettiamo in atto, quanto, ricordate il tema della comunicazione, includiamo nei nostri processi le persone, alleanze con il non umano, ma lo siamo già un'alleanza con il non umano, basta riconoscere. Ecco, a proposito delle alleanze con il non umano, voi avete sottovalutato l'alleanza che noi abbiamo stipulato con il tempo, col sole, con il cielo, ci ha fatto fare tutto, tra l'altro usciremo anche con questa giornata, questa non è banale per me, ancora una volta lasciare andare. E poi voglio invece chiudere verso su questa questione di questi aspetti critici, perché è importante parlare anche di quello che non ha funzionato, tra virgolette, sempre rispetto a delle aspettative, ovvio, proprio che mi sembra che non ha funzionato nel termine della costruzione. Allora io magari chiudo con due cose. Vabbè, intanto la torta della poesia, magari entrambe, cioè più torta così, oppure una torta poetica, o la poesia che puoi mangiare, non lo so. E laboratorio, bosco, a volte pensiamo sempre che noi stiamo chiusi, no? Io lo dico sempre, uscire dalla torre d'avorio è la classica immagine, ma in realtà si può stare chiusi anche all'esterno, quindi la chiusura, anche qua, chiusura, apertura, sono dei concetti assolutamente labili. E vengo su questa questione degli aspetti critici, diciamo, intanto e cito un episodio che è accaduto quando abbiamo ascoltato Elisabetta e Nicola. E io lì all'inizio, quando Nicola ha aiutato Elisabetta a leggere quel testo dove l'orsa parlava, io pensavo, ma tutti che dicevano quanto è bravo Nicola, io ho pensato che Nicola non era bravo a recitare, io ho pensato che Nicola a un certo momento, perché non all'inizio, ha preso sul serio l'orsa, l'ha presa proprio sul serio, quel prendere sul serio è diventato orsa, quella cosa lì è fondamentale, prendere sul serio, anche questo devo ringraziare questi artisti che mi hanno insegnato quanto ci prenderemo sul serio, quanto ci siamo presi sul serio qui in questo momento, quanto riusciremo a prendere sul serio la cosa che ci ha spinto ad arrivare fin qui dopo, quando torneremo diciamo nei nostri ambienti, e chiaramente sarà difficile raccontarla questa esperienza, ci proveremo, capiremo anche lì cosa si può condividere, cosa non si può condividere per evitare di essere ridicolizzati, di essere, diciamo, perché è normale, no? Anche affrontare magari il ridicolo. E chiudo su questa questione appunto della mentalità, no? Del fatto che siamo occidentali, insomma, diciamoci la verità, no? Siamo anche privilegiati, perché noi siamo qui, anche se tu sei povera, comunque sei riuscita a vivere. Così. Aiutiamo tutti. diciamo, però il punto, diciamo, non è che siamo privilegiati, il punto è cosa ne facciamo di questo privilegio, di questa verticalità, di questa cosa ne facciamo, e come sulla comunicazione, cosa ne facciamo anche dei saperi che abbiamo, li utilizziamo per creare ancora più distanza, oppure, cioè, è questa secondo me la domanda alla fine forse che ci possiamo fare, lo usiamo oppure innanzitutto lo riconosciamo, ma quello è un punto di partenza. È un punto di partenza, cosa ne facciamo di questo privilegio? Lo usiamo magari per andare incontro agli altri, lo usiamo per aumentare le distanze. E quindi, insomma, con questa domanda che avete capito che è la cosa che ci contraddistingue, piuttosto che insomma una risposta, che nessuno di noi ha una risposta, insomma, credo che possiamo anche così andare verso la fine. Alice, quindi viene a parlare. Posso? Sì, certo, abbiamo tempo supplementare. Ce la facciamo, siamo abbiamo fatto. Io ho alzato lo sguardo su questo portale e mi sono chiesta quando verrà il giorno in cui cadranno. Il cielo da lontano ha urlato di verdi e rossi che lenti scendono fino alla valle. Oggi riguardo queste montagne e di nuovo mi domando, chissà forse quando i comuni verranno. Il fiume è secco e io bevo il latte della ciotola comune di questo cerchio. Domani forse tutto cadrà, ma oggi dalla montagna un richiamo ci metta. Avete forse visto il lupo nella riva? Grazie. Io volevo fare un saluto, poi ci darò una pratica veloce. No, siamo qui. Sento il bisogno di farlo da quando sono arrivata, non è stata la posizione. Sei trattenuta. Mettiamoci spalla a spalla. Non darò indicazioni, penso che di solito viene sempre in modo diverso, con un gruppo diverso, semplicemente l'ascolto di se stessi, del gruppo, e anche un po' di lasciarsi andare, non prendersi troppo sul serio, di respirare. Ma Dio, ma non vedo l'ora di... Alza, riesci a aprire un po' di... Devi parlare di...